Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Resto Radio Convento, siamo in diretta, il nostro motto, come avrete sentito, è per raccontarsi, per raccontare. Cosa significa? Significa che ospitiamo soprattutto i nostri festeggiati, come è giusto che sia, per scoprire qualcosa in più di loro, capire il motivo della loro festa e farci raccontare qualcosa. Un bello spazio libero per parlare in libertà. Abbiamo un'altra sposa insieme a tre amiche, quindi diciamo un addio nubilato ristretto, perché solitamente la media è un 10-12 persone. Invece voi avete scelto di farlo intimo, dai, diciamo così, intimo. Vai, andiamo, cominciamo a conoscere la sposa. Benvenuta intanto, come ti chiami? Ciao, io sono Sara, lei è Simona, la mia testimone. Ah, vedi, subito, subito gli onori di casa. Vai, vai, Sara. Poi c'è Simona, Cristina e Giulia, le mie ancelle. Ancelle, addirittura, come mai ancelle? Perché anche loro hanno una parte nel mio matrimonio. E sarebbe quelle che portano i fiori, no? Che, no? No, magari mi tengono il velo, mi portano. Ah, devi ancora deciderlo? Sì, sì, è ancora stai pianificando. Però mi piace il ruolo dell'ancella, perché certo. È proprio quella che, come dire, spiana la strada, apre il percorso. Esatto, mi piace. Mi spargono i petali prima che io parli. Bello, il petalo è forte, va ancora forte il petalo. È molto anni 80-90, però dai, è affascinante, sembra affascinante. Non passa mai. Beh, come il violino in chiesa, l'arpa è forte, l'arpa. E tu c'hai l'arpa. Mi hai beccato. Vedi? Ma è d'atmosfera, è molto bella. Allora, da dove vieni intanto? Ordinuovi. Che è provincia di Brescia, per chi ci ascoltasse dall'altra parte. Bergamaschi. O anche dall'altra parte del mondo, chi lo sa, che magari non sanno dove è Ordinuovi. Esatto. Famosa per l'attività educativa. La città educativa di Orzinuovi è importantissima. Vabbè, ci sta, insomma, è giusto anche fare, come dire, un approccio locale e culturale, perché esatto. Insomma, è inutile, come dire, è anche utile, la però di è facile andare a vedere Brescia, facile andare a vedere Milano e così via, però anche i paesini hanno il loro perché, no? Bravissimo. Hanno forse un po' meno attrattive, ma ci sono. Che hanno meno attrattive. Chi lo dice? Infatti, pullulano addirittura. Assolutamente. Tra l'altro ricordiamo assessore al turismo di Ordinuovi, è la nostra sposa candidata. Prossima candidata, il 26 maggio si va al voto. Ma subito, ma deve sei nella giunta davvero? Ah no, però no, l'ha detto con una serietà e io quasi ci ho creduto. A questo proposito, se guarderete la webcam lo capirete sicuramente, però insomma se solo ascolterete mi fa piacere dica lei. Facci capire il motivo del tuo festeggiamento, anche se un po' si è capito, parlando di testimone, ancelle e petali. Beh, io sono la sposa prossima al grande evento, lei è la mia testimone che mi accompagnerà nella mia lunga storia e le mie proprio dorme anche nel letto con voi, proprio, cioè, 24 ore al giorno. È un lavoro, no, è un lavoro. Ho preso il letto grande in più, esatto. Proprio perfetto. Per lei, starà in mezzo. Sì, sì, ma è un lavoro duro, però ci sta, bello. Ah, in mezzo addirittura. Assolutamente, la cameretta invece per loro. La cameretta per loro, così lei avrà il compito di... cantina invece per i party. Per i party, bene, bene. No, dicevo, lei avrà il compito di sedare le liti e le discussioni, dovrà fare da pacere, no? Un po' da tipo il giudice di forum che fa un attimino da pacere. Bene, bene. Quando sarà questo lieto evento, quindi? 18 maggio. 18 maggio e ci sarà anche un fortunato, immagino, uno sposo. Mattia. Sì, Mattia, ok, benissimo. E no, cosa volevo dire? Mi piace... ma come mai sei così legata a lei? Dimmi un po'. No, perché hai presentato a malapena il tuo nome, ma hai detto subito lei è la mia testimone. Esatto. C'è questo legame forte? Allora, lei è l'amica con la maiuscola. Ah, però. Sì. All'inizio o alla fine? Tutte e due. Ah, tutte e due. Sì, all'inizio e alla fine, esatto. Bello. Perché la faccio breve, comunque è stata una delle prime persone che io ho conosciuto. E da quel momento è stata amicizia, amicizia è stata. Oh, che bello, che bello. Vari momenti. Adolescenza, alti e bassi, un po' come tutti, ma si è sempre state legate e questo mi piace. Bello. E ho deciso lei. Bello, mi fa piacere. Due domande a riguardo, perché c'è anche un po' di curiosità, a noi piace farlo, perché solitamente si parla troppo spesso di come solitamente uno, perché lo fa l'uomo, chiede alla propria compagna, fidanzata, di sposarla, ma poche volte si parla di come gli sposi chiedono ai testimoni di essere i loro testimoni. Quindi raccontaci com'è andata tra voi. Non ti ricordi neanche. No, allora in una sera parlando tra cose normalissime, gli ho detto: guarda che sarai la mia testimone, ma ancora non c'era niente di programmato. Ah, quindi già prima, ok, era fatto prima. Quindi lei comunque si era già tenuta libera, in sostanza. Aveva già preso il vestito, tutto. Esatto, quando è stato il momento decisivo gliel'ho comunicato, come non me lo ricordo, forse per messaggio. Beh, probabilmente per associazione di idee, nel senso che nel momento in cui le hai detto: guarda che mi ha chiesto di sposarlo, le ha fatto 2 più 2 e mi ha detto: mi tocca, è il momento. Penso che sia andato così. E la domanda invece tecnica, visto che le cose stanno cambiando, è sul numero, perché mi dicevano che adesso si possa arrivare fino a 3. Come funziona? Testimoni. Ah, non ne ho idea. Non ho idea. No. Non neanche proprio valuta, neanche chiesto. No. Anche il tuo ragazzo ne avrà uno? Due, vedi che però lui 2 e tu 1 invece. No, 2 anche. Ah, 2 anche tu. Certo. E non so, perché sentivo dire che si può arrivare a 3, si può scegliere, decidere. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Vabbè, insomma, 2. Passa parola, 2. Ok, e invece le tue ancelle come mai le hai scelte per questa serata? Sono una la mia compagna di banco di fiducia. Ma va. Allora, di fiducia perché ti ha passato i bigliettini. La verità. Addio, tra me e lei non so chi li passava i bigliettini. Ah sì? Ma perché eravate due cime o due rape, tutte e due? Io rap assolutamente, rap. Lei lascio parlare per lei. Davi forte o? Come compagna di banco. Ah sì? Io evidenziavo tutto, questo non è un dato di fatto. Che se dovessimo farlo studiare da uno psicologo ti rinchiude domani, perché uno che evidenzia tutto dicono sempre che ha problemi incredibili. Vabbè. Anche da, è vero. Evidenziavi tutto, quindi manda. E lei era un'altra compagna di banco dall'altra parte, c'era il corridoio che la mia compagna. Esatto. Ah, tutte e quattro a scuola insieme, certo. Quindi. Fantastico, che scuola avete fatto? Ragioneria. Ah, no, ci ha pure pensato, infatti io non capivo che dubbi avesse o se ne avessero cambiato. Ragioneria. Ha preso il diploma, ragazze? Sì, non lo so. So, io se fossi in te una telefonatina alla preside la farei, tanto per rinfrescare un attimino la mia carriera scolastica. Esatto, no, perché signora preside, sa, sono passati tot anni, però io non ricordo se ho preso il diploma, non è che potrebbe illuminarmi sulla mia carriera. Magari ti sbagli, non lo so. Sai adesso che lavoro fai, cosa fai nella vita o stai ancora cercando di capirlo? Meglio non dirlo. Meglio non dirlo. Lavoro ma lavoro. Lascia stare. Lavori ma lavori. È un campo intoccabile. È un campo intoccabile, va bene, allora no, non lo tocchiamo, non lo tocchiamo. No. Ma no, ok. Quindi 3 compagne di banco che poi sono diventate compagne anche nel proseguire della vita, insomma. Esatto. Oh, bello, cioè, bello. Lei era già prima, eh? Uh-huh. No, mi interessava capirlo per il motivo che dicevamo all'inizio, perché insomma ritrovarsi in 4 è strano, perché è un po' inusuale, però immaginavo ci fosse una ragione seria, sensata e importante. Mi faceva piacere che tu ce la raccontassi. No, beh, assolutamente no. Allora, vuoi dire ancora qualcosa? Vuoi mandare un messaggio a qualcuno? Salutare qualcuno? No, niente, ringrazio loro per la serata che mi hanno organizzato e sono molto contenta. Basta, bene, quello è l'importante. Sì, ma anche perché una che evidenzia tutto, poi per, come dire, per la legge del contrappasso le viene il dono della sintesi, no? Bravissimo. Perché solitamente evidenziando tutto uno dice: vabbè, non sai riassumere, non sai abbreviare, fai degli sproloqui dei 12 anni, no? Perché, come diceva Dante, per la legge del contrappasso poi in 4 parole chiudi il discorso e dici tutto quello che devi dire. Perfetto. Chiare, concise, efficaci come è giusto che sia. Va bene, allora grazie mille ragazzi di essere state con noi e buona fine festa, visto che avrete ancora un po' di tempo per ballare, se vi piace ballare o comunque per stare in nostra compagnia. Grazie. Allora, grazie ancora e ovviamente in bocca al lupo alla nostra futura sposa e in bocca al lupo anche a loro che, da quanto abbiamo capito, in quella giornata avranno ruoli molto molto importanti e quindi diciamo precisi. Esatto, no, non al tuo stesso livello, ma saranno comunque molto molto emozionate e molto molto presenti, ci fa piacere. Certo. Grazie ancora ragazze, buona serata, ciao!